sempre compreso la mia fantasia. L'hai accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel cuore. Hai preso il mio giorno, lo hai reso migliore. E ora scrivo qui in fretta per dirtelo ancora, che sei forte e fragile senza paura. Tu resta la stessa di sempre. Sei la cosa più bella che indosso. Sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Sei la strada che porta alla vita. Donna instabile, sei la mia sfida. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto. Compreso la mia nostalgia dei giorni ormai persi ed ormai andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza. Te che dei miei occhi ne sei la sostanza. Comunque poi adesso che ti ho davanti prometto di restarti accanto per sempre, per sempre, per sempre. Sei la casa più bella che indosso. Sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Sei la strada che porta alla vita. Donna instabile, sei la mia sfida. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce.